Libro di Michea. Parola del Signore, indirizzata a Michea di Moreset, al tempo di Jotam, Acaz, Ezechia, re di Giuda. Visione che egli ebbe intorno a Samaria e a Gerusalemme. Ascoltate voi, popoli tutti, fa attenzione, terra, con quanto ti riempie. Il Signore è testimone contro di voi, il Signore dal santo suo tempio. Sì, eccolo, esce dalla sua dimora, discende sopra le sommità della terra. Le montagne si sgretolano sotto di lui, le valli si incurvano come cera davanti al fuoco, come acqua che scorre verso il basso. Tutto ciò per colpa di Giacobbe, per il peccato della casa di Israele. Qual è il peccato di Giacobbe? Non è forse Samaria? E qual è il peccato della casa di Giuda? Non è forse Gerusalemme? Io farò di Samaria una rovina in mezzo a un campo, terreni per piantarvi una vigna. Farò rotolare a valle le sue pietre e scalzerò i suoi fondamenti. Tutte le sue statue saranno infrante, tutti i suoi guadagni distrutti dal fuoco, tutti i suoi idoli io li ridurrò a nulla, poiché guadagnati con il guadagno da prostituta ritorneranno guadagno da prostituta. Per questo io mi lamento e gemo, vado scalzo e svestito, faccio lamento come gli sciacalli e lutto come gli struzzi, perché il castigo del Signore è ineluttabile, arriva sino a Giuda, batte fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. A Gat non lo proclamate, ma piangete, soltanto piangete. A Betleafra avvoltolatevi nella polvere. Suona per te la tromba, tu che abiti a Safir. Dalla città non esce colei che abita a Zaanan. Bet-Esel è avulsa dal suo fondamento, dal suo solido sostegno. Come può attendere il bene colei che abita a Marot se è sceso il male da parte del Signore alle porte di Gerusalemme? Attacca il corsiero al cocchio, tu che abiti in Lachis. L'inizio del peccato essa è stata per la figlia di Sion, perché in te si trovano le colpe di Israele. A te è stata versata una dote, Moreset e Gat. Bet-Akzib sarà una delusione per i re di Israele. Chi ti acquista tornerà di nuovo, tu che abiti in Maresà. Fino ad Adullam giungerà chi farà scomparire la gloria di Israele. Strappati i capelli, rasati per i figli che erano la tua gioia. Dilata la tua calvizie come l'avvoltoio, perché son deportati lontano da te. Guai a chi trama l'iniquità, a chi progetta il male sul suo letto. Dallo spuntar del mattino lo eseguono, perché è in potere delle loro mani. Essi bramano campi e se ne impadroniscono, le case e le prendono. Si impossessano così di un uomo e della sua casa, di un individuo e della sua proprietà. Per questo così dice il Signore: ecco, io tramo contro questa genia una sventura da cui non potrete sottrarre i vostri colli, né potrete marciare a testa alta, perché sarà tempo di sventura. In quel giorno si comporrà su di voi una satira, si canterà un lamento e si dirà: siamo spogliati di tutto, la parte del mio popolo è misurata con la fune, né c'è chi può restituirgliela. A chi ci spoglia sono assegnati i nostri campi. Perciò non ci sarà per voi nessuno che getti la fune dopo il sorteggio nell'assemblea del Signore. Non vaticinate, essi vaticinano. Non vaticinate tali cose, l'obbrobrio non ci capiterà. Sarà forse maledetta la casa di Giacobbe? È forse venuta meno la pazienza del Signore? È forse questo il suo modo di agire? Non sono forse benevole le sue parole per il suo popolo Israele?